sale poco per la pioggia, mi. Natalino! Vabbè, feriti ce n'è in questo canale? No, no, solo qua. Ah, solo qua. E allora abbiamo migliorato tanto. Eh beh sì, direi proprio sì. Meglio guasti che feriti. Da ferite si muore, dai guasti invece al massimo non succede niente. E claro, mi sa che domani mattina se ci sei ti faccio uno squillo. Sì, dovrei essere in zona, ma no? Che mia moglie mi mandi al mercato a comprare qualcosa, dipende da che ora mi chiami. Ma lo sai, io esco sempre abbastanza tardi, il sabato e la domenica, quindi intorno alle 7 sono in giro. Alle 7 del mattino? Sì, la mattina ne varia. Se no sono le 6:30, quindi mezz'ora di coso ci sta, dai. Perché tu a che dai? No, io già non esco presto. Già c'è il tempo per fare le cose, dai. Non c'è problema. Vabbè, dimmi a che ora esci a fare la spesa, tanto tu andrai di lì in zona, no? Sì, di solito già sono qua, dai, non c'è problema. E poi alla metà adesso inizia a cuociare il pane, quindi scendi giù, ti fa la passeggiata, rigorosamente poi dovrai andare in Piazza d'Italia, no, non ci vuole Piazza d'Italia. Sì, Piazza d'Italia, sì, di solito entro in Piazza d'Italia, Gianfra. Guarda, te l'ho detto perché stamattina ha chiamato un collega, come si sta per me? Dove sei? Sono qua in Piazza d'Italia, ho detto guarda, ho detto non è possibile, dai. Per carità, Piazza d'Italia, io già venne in Piazza d'Italia, contendere Mattamelli. Io lo dico passeggiando. No, passeggiando, addirittura. E si prendono il caffè e tutte quelle cose lì. Ma io sto leggendo questa cosa che rottura di palle veramente. Dice che l'Enel, no, quella classica che per anni abbiamo utilizzato, fornirà solo energia, ma non la venderà ai privati, quindi dovremo passare a quanto pare a un gestore privato. Perché avevo sbagliato un microfono. Addirittura, e quindi chi è nel cos'è fatto? Sto cercando di capirlo, perché fortunatamente la cosa è dal 2019, se non fai una scelta se la fanno fare obbligatoria, in parole povere, mi dà quel poco che si capisce. È un casino. Cosa ti volevo dire? Non lo ricordo più. Ma se ti interessa quello a fare, guarda, a me tanto per cambiare mi servirebbe un altro, come si chiamano? Non viene, quelli a fare che se ne è così, poco sto diventando rincoglionista. Un duplexer. Duplexer? Beh, mi è rimasto solo quello della Kenwood, Gianfra, perché quando ho comprato 910H l'ho comprato con l'Uplex, mi pare, sì, e cioè tutti e due gli attacchi che li avevo cambiato io, tutti e due gli attacchi PL, gli avevo tolto quello N perché è una stronzata e non viene bene a dirlo. Sì, questo vuol dire anche una rottura di palle, tra l'altro. Ma ora me l'avevi data a me, non era che in voodoo che io ricordi, però uno me l'avevi già data a me. E niente, quello lì ti serve? No, ce l'ho collegato al coso, non mi serve Gianfra, assolutamente. Ce l'ho collegato al 780 con un'antenna interna, giusto per una bibanda, quella che mi hai dato tu, no? quella lì, giusto per ricevere così in città, capito? Dai, chiamami domani mattina, se ti serve te lo do lui, non c'è problema già. A cambio con quel portatile, se va bene. Poi te li hanno dati così per collegarlo a un'altra. Sì, sì, l'ho preso dentro la sua cosa ancora, non l'ho manco toccato Gianfra, perché questi giorni sono incasinato, impegnato a fare un sacco di cose, già lo sai, e quindi niente, non ho fatto niente, adesso mi stavo cambiando l'autoparlante a una radio, l'ho comprata nuova, originale, proprio sui home e tutto, perché non capivo come mai era, cioè c'era questo gracchiare, l'ho aperta ed era spaccata, capite? Ma Radio Nostre o Autoradio? No, Radio Nostre, quella del 430, capite? Ma non era così, no, adesso non mi accorto, era così, lì sicuramente quando l'ho mandata al centro assistenza l'hanno rotta loro, capite? E ultimamente mi gracchiava, infatti mettevo sempre l'autoparlante interno suo, mentre gli altri non gracchiano, sono perfette, c'è anche 440 e 140. L'ho aperta e stamattina sono andato a fusare, ne aveva una uguale, precisa, identica, piccolina, e si home, l'ho cambiata, infatti stavo provando a ricevere con quello ed è perfetta. Sì, si sarà spaccata la, come si chiama, la membrana, no? Dopo tanti anni, con i balzi termici soprattutto adesso, prendono a farlo, diventano dure e si spaccano. E così. Io invece sto pensando, cambiando connettori a Google, e adesso mi devo costruire un coso per cortocircuitare un po' l'antenna. Già ci sono i sistemi di sicurezza, però siccome le antenne, quelle 510 ad esempio, non sono cortocircuitate, quindi con questo clima che ci stiamo ritrovando, ogni tanto fate qualche scarichetta, una scarica oggi, una scarica domani, si fa di apparati. Si conferma, è proprio così, cioè alla fine è così. No, informati bene in questa cosa dell'Enel che mi interessa, capito? Io sono Enel, quindi andare a finire in mano agli sciacalli non è che mi piaccia molto. Ma sembra che l'abbia fatto l'autorità garante per venirci incontro. Però il termine l'hanno spostato a giugno 2019, mi sembra, quindi ancora per scegliere, cioè se no era quest'anno, che poi non ho capito, qua parlano di tutta la simile che a noi non ci riguarda, che prevede un consumo di 140 euro di pagolo al mese, non all'anno. Lo so, però il problema è quello che se decidono di mandarti con un'altra compagnia, ti mandano e tai budi gagliamudo, capito? Stanno massacrando con queste cose. Ogni giorno ce n'è una. Grazie di volta, cambio microfono. Sai che mi sta chiamando mia moglie? Sì, fai. C'è qualcuno qua? Ma attenzione, ci sono solo guatti. Se tu c'hai la patente di guatto puoi entrare, se no. Guarda, c'è anche Claudio che è guatto, quindi sono anch'io, siamo già in due, cioè anche tu lo sei automaticamente membro. Sì, siamo in tre, dai, ciao Gianfra, buonasera. Ciao Natalia, ma ti porti dietro una trombetta? No, ce l'hai anche tu. sotto. Vuoi qualcuno che mette la portante, buh? Ma mi sembra troppo sincronizzata per essere una portante. Controllati bene l'apparecchio. Dale un colpo. Guarda che ce l'avevi anche tu, va, sotto. Adesso tra poco torna Claudio e ci dice qualche cosa. A vedere chi ce l'ha la trombetta. Ce l'hai anche tu, ce l'hai anche tu. Non ho fatto parecchie cose. Sì, tu c'hai proprio un fischio. Fa qui, e si fa sotto. Sembra strano. Aspetta, io con tutti gli apparati che ho di controllo qua, di misura. La lampadina non accenderne uno. Vediamo un po' cosa possiamo accendere. Adesso mi... c'è anche il monitor volendo. Come sono mandrone? Una giugana. Aspetta che da un'altra parte che fa fare. Sempre a fatto era meglio. Che siamo fatto un attimo. Infatti che come vuole la portante di fare. Anche il tuo. Anche il tuo. Vediamo un po'. Come si era il cambiato? Non credo che ci sia. 27, 25, 27, mamma, tutti si mette anche la mamma, adesso fa un casino e poi non basta. Qual è il problema? Senti se c'è una trombetta appresso, anzi adesso ce l'ho, aspetta che spengo l'apparecchio allora, dato che ci sei tu. Chi esce la trombetta? Io ho Natalino, ho tutte e due. Prova tu Natalino. Guarda, 1, 2, 3, prova, vai. Io sono stata che ce l'avevo. Siete tutti e due perfetti, senza trombette e senza coriandoli. Ti è sparita Natalia adesso? Sì, io. Ma cosa mi stavi? Prendendo per quattro? A chi? A te? No, no, vabbè, ma tu sei così. Ah, sì, Natalino. No, ho detto che siccome ha fatto break, ho detto può entrare solo se fa parte dei guasti. Ci sono già io e Claudio, se no li facciamo entrare, no? Ecco un altro, qui l'altro guasto. Così tanti eravamo, Claudio, io non me ne accorto. Non lo sapevi, e lì ci sono guasti, ci sono. Al baracchino sono guasti. Mi sentito mai di nuovo fra adesso il titi? Ma è Natalino però. Cosa vento io, cosa vento? Ciao Marco, comunque. Tu lo senti quando parla Natalino una trombetta? Parla Natalino, fai un passaggio lungo. Prova, 1, 2, 3, 4, dai, guarda un po' se c'è questa trombetta. No, qua niente, da te risulta? Da me sì, da te Claudio. Anche da me il passaggio che ha fatto l'ultimo, ciao Marco, buonasera. Una leggera trombettina. Non è una portante Natalia, è un qualcosa che ogni tanto ti porti appresso, non lo so, derivato da che cosa. Non è una portante. PL, che non sia quello là fuori dal microfono. Com'è che non l'ho sentita? O siete in cuffia o avete un volume esageratamente alto? O tu sei sordo? Può darsi pure. Vabbè, qua non... certo, un po' bassino di radio con quello omologato, però d'altronde, quello deve usare, se no i vicini cominciano a far sentire. No, non è per i vicini, me ne sbatto, già lo sento che cos'è. Arrivo subito, un secondo, un minuto. Eia, già lo so, nel caso che puntini, eia. Io stavo guardando Bonolis, c'è la pubblicità, sono venuto qua perché sentivo voci, soprattutto quella di Claudio, che è la più forte. Ci ho voluto salutare, ma sono attaccato alla TV, dai. Ah, io la smetti oppure metto la portante al ponte, così almeno non ne vedi più Bonolis. Ah, la portante a Monteoro metti. Avevo chiamato alle 6:15, alle 6:15 ho chiamato a voce, ho fatto bip, niente. Non ha risposto nessuno. E vabbè, poi adesso con un altro studio aperto, allora belle notizie ogni giorno, sparatorie, questo che viene ripreso in moto e inizia a sparare sulla folla, ma la gente è matta proprio, sempre peggio se ne sentono. Poi il solito gruppo di ragazzini massacra un loro coetaneo perché dice di non spingere sulla metropolitana. Te l'ho detto, ne stavamo parlando con Gianfranco. Ormai questi giovani sono marci già da piccoli, non hanno genitori, non proprio lasciatelo stato bravo. Bisognerebbe prendere e dargli una sussa, ma una sussa! Perché forse solo con i colpi la capiscono, forse. È così, ma colpi mandati. Qua c'è un'energia, ma non si sta tanto niente. No, non capiscono altro, che palle. Vabbè, me ne occuperò a tempo di vittoria. Niente. Mi devo allontanare perché la cena è pronta. E nessuno faccia commenti. Facciamo commenti. Va bene, mettiamo alle pulsine, già bravo. Avanti, Marco. No Gianfra, io commento me stesso perché praticamente oggi pranzerò alle 8 di sera, oggi non ho voluto mangiare prima perché non ho mangiato cioccolato, non avevo voglia, quindi io pranzerò alle 8 di sera, incredibile ma vero. Beh, non ti smentisci mai. No, io mangio presto, così digerisco bene e poi posso tornare in radio tranquillamente, tanto io faccio in fretta, 15-20 minuti. Eia. Oh, caro Natalino, oggi pensa che ho fatto una scappata dello spin a pigliare la sabbia del gatto, no? Ho detto, guarda, se esco alle 4 o poco più, torno alle 5, intorno alle 5, 5 qualcosa, trovo parcheggio. Oh, non è uscita una macchina, in tutta la via non è uscita una macchina, faccio giri, sopra, sotto, niente. Ma sta diventando una cosa preoccupante questa storia, Se uno torna da fuori, dove cacchio la mette la macchina? Magari c'ha fretta di portare i figli a casa. Io sono dovuto stare quasi un'ora, non proprio un'ora, ma a fare i giri, ad aspettare, a avvistare se usciva qualcuno. Una cosa tragica, tragica. Poi finalmente in via Savoia si è liberato un posto e me la sono preso subito. È una cosa che non si crede. E Natali, tu si è messo più o meno, anzi forse peggio tu, perché quella è una via centrale di passaggio e mamma mia. Alla fine mi viene voglia di non prenderla più la macchina. Poi stava cominciando a piovigginare, allora subito il traffico si stava rimpolpando in viale Trento. Maledetti. E vabbè. E poi sono andato al bar e mi sono pigliato un tè caldo al limone, una meraviglia. Cosa sei andato a fare al giusto spinto quando stavo a volare io quell'altro? Ma secondo te venivo da te e dove parcheggiavo, Natalì? Me la dare in un secondo momento, ma nel frattempo mi serviva urgente, devo cambiare la sabbia ai gatti. Poi me la darai, se me la dai, se no, se non mi vedi dopo tanto tempo buttarcela. Vai prima a buttarcela a me. Sì, allora la faccio dare a Rosalba, quella che c'ha già, quel corso. Ma che penso, quella buona. Sì, infatti, tanto io già lo sai, dalla appena puoi dalla, non aspettare me. Assolutamente, anche alla lettiera, e la lettiera ce l'ho già in realtà, la lettiera, c'è la cassetta dove mettere la sabbia, che poi non è sabbia, è tipo bentonite, non lo so, è rossa come l'argilla ma assorbe molto molto bene. L'altra volta riempendo la stufa Zibro con l'imbuto mi è caduto sul pavimento un po' di Zibro, di quella isoparaffina, quella roba lonfia. all'inizio mi è venuto il panico, no? Poi ho messo sopra la stessa sabbia dei gatti, quella rossa, ha ripulito tutto, non ha lasciato una traccia, è perfetta, è un po' come, sai che cosa, Natalì, è come la seppiolite che i pompieri mettono in strada quando una macchina perde olio, oppure qualche camion perde, come si chiama, gasolio, capito? Tipo la seppiolite, assorbe molto molto bene. Ma mi pare si chiami bentonite questa, è la stessa, siamo lì, me. E quella sabbia assorbe tutto, assorbe. Però la grigia è tremenda, la grigia è cemento, la grigia, quella economica, è terribile, sporca il pavimento, questa invece non lascia una traccia, assorbe tutto olio, che in cucina lo stesso altra volta ho trovato tracce di olio a terra, insomma ha vari usi, dai, non solo per i gatti. Detto ciò, dai, io torno a vedermi Bonolis, se no me lo perdo. Ci sentiamo forse. Faccia come credo. Ciao Marco, ciao. Anche a te, adesso chiudo. E così tra un po' cielo. Ciao ciao a tutti. Anche a quelli che magari ascoltano. Vabbè, ma c'è Gianfranco, poi rientrerà Claudio forse. Perché stai chiedendo? Ma perché devi mangiare? No, perché non mi piace sentire il QRM, capito? Oppure parlare con Muro. Ma Gianfranco non è il Muro. Sì, ma quando entra Gianfranco io sto già a cenare. Ah, per quello. Ma mia, questo alimentatore mi dà sui nervi, senti il rumore che fa. Ogni tanto, non lo so, ho provato a vedere la ventola, non c'è niente da fare, va cambiata, mi sento. Molto rumore fa. Me l'ha indovinata, forse vorrà nuovo. Sì, ho provato a soffiare aria lì dove c'è il colore della ventola, ho provato a mettere un antiossidante, ma fa rumore, è proprio l'asse, se fuori asse la ventola, guarda, se la trovo del computer la cambio, perché è rumoroso un po', insomma, seccante, dai, va bene, io vado, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao a tutti.